e poi il giorno che mi sale il pallino di spostare tutto, ma lontano da qua mi farà un po' più difficile entrare, perché spostarmi da qua è vicino, però io qua c'ho il computer, capito? Adesso c'ho il computer e il baracchino vicino, però se lo sposto un domani, lo metto più in là, sarà un bel casotto, lo userò molto molto meno. Come mai questa decisione? Ah, non è una decisione, ora sono stato 10 anni senza usare il baracchino, 10 anni, tondi tondi. Vabbè, ho dovuto attaccare perché purtroppo, cioè su 20 famiglie insomma una persona qua, una sola. Vabbè, colpe erano le mie, e mi tagliavano il capo di continuo, e io non potevo stare sempre a comprare il capo, a riparare, salire e fare. E niente, ho dovuto vendere tutto e abbandonare, poi ho riprovato, sempre punti a capo, mi stupavo. Però il problema non era mio, ma era, diciamo, dalla vicina che c'era una TV un po' vecchiotta, gli entravo nell'audio. Poi andiamo, ha fatto questa specie di un avvolgimento con la macchinetta, no? Con un capo, metti di questo qua, guarda che risolvi il problema. L'ho risolto di meno, lo sentiva solo quando metteva le cuffie la notte, se no non mi sentiva per niente. Poi vabbè, alla fine siamo cambiati la TV, poi siamo entrati in digitale terrestre e ho risolto il problema. E niente, se no io non l'avrei manco ripreso. Ma mi hanno regalato il baracchino Franco, ce l'ho ancora, un Rara 34, e da lì ho iniziato, ho fatto il capo, le luci, poi il carro mi ha regalato l'antenna, e da lì poi ho ripreso. Ma comunque non è più come prima, Antonio, guarda, te lo posso garantire. Prima c'era gente, si facevano QSO, adesso non più. Adesso c'è, quando sentono persone, c'è sempre l'imbecille che mette la portante, c'è sempre, sempre. Perciò non è mai la candela, non vogliono che questa frequenza si viene usata da noi. Da noi e da chi, dagli altri, ecco, da tutti. Tutto qua. Vabbè, no, perché tanto io ripeto, anch'io ero anni senza utilizzarlo, sai, gli anni 90, gli anni d'oro, c'ero tranquillamente. Avevo un altro nominativo, ma c'ero. E poi mi sono sposato e ho mollato, ma senza buttare nulla, Tanto ho detto prima o poi lo riattacco, adesso ho altri impegni. Ho mollato così e ho ripreso di nuovo alla fine. Ne sono contenta perché ero meno male, anche il rumore di sottofondo della radio, se anche se non c'è nessuno, un po' di propagazione, mi piace, ti riempie un po', no? Anche la stanza quando stai facendo qualcosa. No, dunque, anche se un domani non ci sarà nessuno qua in zona, io me lo terrò sempre, la verità. L'accendo, cercherò di fare qualche collegamento con Furi, sempre cercando di capirci, via, ma lo terrò sempre, mi piace, la verità, è un peccato, è una passione da mettere da parte, non è bello, poi giustamente ognuno c'è i suoi modi di vedere, per carità, però fa sempre piacere, mettere da parte, buono, è uno spreco, secondo me. Io te l'appoggio. E buonasera, Pompo, me ne intendi tu? Buonasera, tutto buono, mi sentito, ciao, Gianluca. Avanti Gianni. Infatti buonasera, dai, la rotta, buonasera anche a Pompugno, stavo aspettando il passaggio. Ciao Gianni, salutoni anche a te. Salutoni grandi, dai. Oh, volevo aprire un discorso un po' serio, magari se potrebbe interessare. Avanza. Prima di iniziare volevo dire a Pompugno che se ce la faccio questa settimana passiamo, giustamente prima ti chiamo, fate un bidet e poi passiamo. Fate un bidet. Come la vuoi mettere in culo, cazzo, fammi il bidet, scusa. Per la contentezza, Antonè. No, vabbè, dai, Pompo, non te la vuoi mettere, tu la fai una passata, fa un mago. Ma non fa così, bisogna metterla dietro all'asino, no, a me. Perché a me poi mi fa male e poi ci prendo gusto. Non per altro, solamente tutto amore, tutto lì. Avanti Gianni. Allora, volevo sapere, aprire questo discorso. Allora, la 27 comunque è una radio comunque di libera vendita e di libero utilizzo. Se non erro, anche i classici BRM e LPT sono di libera vendita, e questo forse sono sicuro. Quindi se sono di libera vendita e uno ci vuole fare una stazione, adesso non mi dite la frequenza di LPD e PRM perché non me la ricordo esattamente perfettamente, comunque penso che siano dai 466 ai 440, non me lo ricordo, comunque sono legali. Se uno si vuole mettere un'antenna e si vuole mettere una radio base, perché le ho viste le radio basi PRM, comunque sia uno potrebbe modulare tranquillamente, hanno un minor raggio, però uno anche a quella frequenza, 4,46, potrebbe entrare tranquillamente. No, no, no, no, non si può usare antenne, allora, si usano con quelle antenne lì, se tu lo usi con l'antenna grande, come usiamo tutti, allora lì già inizia, cioè non va bene perché inizi già a essere fuori legge. Questi PRR si usano gli antennini, sì, sono di libera vendita, sì, sono d'accordo con te, ma devi usare gli antennini, perché adesso sono 20 km, mi sono 30, o qui, non mi ricordo, 15. Però se tu metti un'antenna di modifica, no, non va più bene. Quindi fatta la legge hai trovato l'inganno, praticamente ti danno la possibilità di usare le radio come le fanno loro con l'antennino, ma non di mettertene in casa con l'antennona. Ah boh, non lo sapevo, vabbè, era una, giusto perché stavo guardando una cosa su internet, ho detto ah, perché il continente si vantano molto, ci sono in Emilia Romagna, io ho fatto un passaggio in LPD, LPD, LP Apona Romagna, cosa sarà? Cioè, come l'hanno fatto? Ho l'antenna qua autocostruita, Budurumba, però sarebbe anche una cosa carina fare anche una specie di stazioncina anche locali tra di noi con questi PRM, anche se sono di basso raggio. Però vabbè, allora è già bocciata la storia, però bisogna anche un po' informarsi, se è vero che non si può mettere l'antennone. No, no, no, no. Ma guarda, un po' come, ma tu. I PMR e gli LPD, cioè i PMR più che altro si usano solo con l'antenna in gomma e basta, non puoi usare l'antenna esterna. Se vuoi usare con l'antenna esterna, in tutte le cose si può fare ciò che vuoi. Anzi, in continente la verità è questi PMR o LPD, come li chiami, li usano per fare i ponti, si chiamano ponti pappagallo in teoria. Capito? Basta, lo usano solo per quello, ma non è che li puoi usare così, no? C'è gente comunque fuori, li usa lo stesso, è come i barchi, non una volta che non si poteva usare l'antenna, si usava la gabbia, si usava un batto, ma per me dopo c'eravamo noi che ci pensavamo, no? Da 23 a passare 46, capito? Non è che c'erano tutti questi consumi, comunque un sacco di gente già ho visto che si sta organizzando, sta usando le antenne UHF, cioè sta modificando e le usa per i PMR. A posto di fare 7 km ne fanno 10-15 km, ci mettono un lineare, a voglia che portano. Buono, buono, buono, e vabbè, meglio sapersi, da giusto un discorsino al di fuori sempre delle solite noie, questo è anche un po' interessante, va bene, dai, riprende Luca, visto che è entrato e ha detto qualcosa di più lo stesso, è proprio il tenditore, dai. Anche Luca se sono stato. Comunque sì, gli LPD da Sassari a Genova ci arrivi tranquillo con una bellezza di 6 watt e mezzo, perché io ci ho parlato con un tipo, ma ti parlo di 8 anni fa, 7 anni fa, sono andato dal genere, da Cacote Larga, e lui, io da Cacote Larga provavo con l'antenna in gomma con il portatile 5 watt, e lui era invece con una direttiva, mi sembra 22-20, e c'eravamo in pari 600 watt. Da Genova parlava tranquillamente con Sassari, in direttiva, figurati. Ma parla parecchio questi LPD, vanno molto di moda di là. Ma tu hai una curiosità, questi collegamenti li fai sempre grazie, aspetta, grazie alla propagazione, giusto? No, ci parlavi da Liceo, questa propagazione. In pieno inverno parlavamo, se cosa non hai capito, eravamo in 4-5 e parlavamo in LPD allora. C'era usata di parlare con la frequenza, nel canale 1 di PD, e parlavamo con un tipo che girava in direttiva. Poi sono passati un quel po' di anni e nessuno li ha accusati, qua stasera, hai capito. Però penso che qualcuno ci sia ancora. Che parla di là, senz'altro, capito, in diretta, quindi no, è una frequenza che va molto, con 5 watt, se c'è una buona antenna, voglia che copri un bel po' di zona. Sì, ma hai parlato tu e il tipo dove si trovava, sempre lì? Lui si trovava a Genova, la verità. Il tipo, eravamo io, poi c'era parlava Vittorio, che adesso è passato allenatore, e altri 3 o 4, che parlavamo con questo signore di Genova. E io c'avevo l'antenna della macchina, e in questo video di Emanuele parlavo tranquillo, con l'LPD canale 1 era 4:33:05, insomma, ricordo la frequenza. E poi ci spostavamo in pari, canale 6 e 7, pare che era, no. Ma comunque a voi arrivano quegli apparecchi, sono buoni, sono 1927 la verità. Dio! E vai! E Dio! E tu, avanti. E io non ci parlavo, ciao! Sì, parlavo anche tu, non è che non parlavo. Poi non l'abbiamo abbandonata per la verità, io provo che metto a casa, lì da cosa che torna a noi, mi ha detto che mi sono abbandonata, allora ho abbandonato la VHF, la verità, che avevo venduto i portatili, gli standard, avevo venduto la cosa a un CD di Adroge, mi pare per 50 anni mi pare avevo venduto il CD, comunque cazzo compava, in via Cotolata davanti a Roma e parlavo tranquillamente con Genova e lui mi arrivava a casa a 9, se mi segnavi di 9 sarà stato 9:10 ancora, è forte, ma veramente forte. Com'è possibile che sono molto più forti della 27? Cioè, in diretta andavi con Genova? In diretta parlavamo, esatto, sì. Adesso, vabbè, non so, l'hanno parlato forse anche loro, ma in realtà non ci sto più andando io, neanche ascoltare, però penso che qualcuno la riutilizza ancora quella frequenza lì, non è che sia vietata per noi, l'ho visto che è messa da parte come PMR, quindi anche PMR c'era il boom, adesso non c'è più nessuno per dire, c'è il periodo sì, il periodo no. Sì, fa come tutte le cose, comunque colgo l'occasione a salutare anche a Dollaro. Ciao Antonio, salutoni. Sì, è una frequenza bellissima, però forse eravamo agevolati perché lui puntava la direttiva sulla Sardegna, capito? E allora riuscivamo a farci sentire noi, era lui che ci acchiappava, probabilmente, non lo so. E vabbè, comunque, tempi che furono, adesso non l'ha più usato nessuno, anche se ancora qualcuno penso che ce l'abbia. Io ce l'ho sempre comunque. Fabio Giulio, buonasera e ben sentito. Ciao Tore. Sì, anch'io ce l'ho Giulio comunque con la frequenza, ci ho portato, adesso ho il TH 78, quindi posso andare dove voglio, capito? Anche in PMR addirittura, ma non ve ne sciuro, ce l'ho spento, guarda, ce l'ho spento la bellezza di un mese e mezzo, non so neanche usato, forse anche di più. Ci ho messo da parte, anche perché sto facendo altre cose e quindi non c'è neanche il tempo di utilizzarlo. Quindi già qualche volta entra baracchino per passare 10-20 minuti per lì. Ok, ma io ho la sensazione che lui non si è fatto più sentire, quello di Genova probabilmente l'hanno pubblicato perché giustamente non è che si poteva fare un collegamento del genere, perché andando con quella potenza, quella minima, lui invece puntava la direttiva e via, e allora noi ne approfittavamo e riuscivamo a parlare con lui, poi per effetto di propagazione o no, io so solamente da 60 centimetri, quante? Oh, è piccolissima, 4,33 tra 4,12, una cosa del genere, 102 metri praticamente. Comunque già lo saprà, comunque secondo me quella, vabbè. Ma quindi praticamente più è bassa la lunghezza d'onda e più è forte lunghezza nel segnale di trasmissione? No, non c'entra niente. No, quello non c'entra niente, noi riuscivamo a parlarci perché lui puntava la direttiva sulla Sardegna, no? E allora riuscivamo a farci sentire, a lui lo sentivamo fortissimo, io ci arrivavo 9,5, 9,10, ma solo per effetto perché era lui che ci acchiappava lui, non è che eravamo noi che arrivavamo là, era lui che ci acchiappava, capito? Beh, giustamente quello, sì. E come ci parlavi? Con quale col portatile o con la radio comunque adeguata? Perché dubito fortemente che da dentro casa col portatile oppure si da terrazzino prenda a livelli così di diretta. Uno può essere anche bravo in direttiva, ma che sia col portatilino, sempre un po' titubante. Un portatilino, con l'antennino da 7 cm, 6-7 cm, con il suo gommino personale, ma capito, no, non c'era problema. Lucina, boa. Vabbè, non si è più sentito comunque, non si può più sentire. Vabbè, ma parlavamo anche quella salsa di essa di noi, a distanza di alcuni chilometri, tipo che sono io anche a Guatamora, dato che sono io, insomma, si riusciva a percorrere almeno 10-12 chilometri tranquillamente. E parlava Michele la prossima volta di quel Michele Falcone, figurati. Allora, io penso comunque quando abbiamo avuto la pagina, non penso che sia passato l'animatore, perché non penso che sia rimasto CB. Tanto si può fare a mettere forte, era una cosa da non credere. Il lusso andava lui. Avevamo allora, ne avevamo 5 o 6, avevamo qua sassa di tutti i miei finti figli. Adesso non è più di giù, adesso non la sta utilizzando. Capito? Non è passato di moda qua. Però c'era un periodo, la 27 era morta, tutti lì eravamo, tutti lì a parlare. Ogni giorno sembrava la 27, il canale, per dire, uno della 27, o 5, 14, quello che era. Chi ci aveva le ripetite passava lì e parlava tranquillamente. Scusate un attimo, vado un altro canale per fare una prova e arrivo subito. Ok, d'accordo, ok, non c'è problema. Avanti Giulio. Siccome era una cosa che non molto potente, allora è stata abbandonata probabilmente per quella, però una bella frequenza perché intanto avevamo 20 canali a disposizione, da 4,33 dello 75 sino a 4,33 500 o 550, una cosa così, insomma i primi 20 canali erano proprio apposta per il CB, poi gli altri, dopo quella frequenza era radio amatoriale. Sì, andava bene. Va buona, continuate voi, io mi guardo la televisione, ci sentiamo, ciao, anche perché qua non posso parlare se la televisione è accesa. Ciao Anto, ciao Gianni e ciao Antonello Baracuda, ci sentiamo, ciao, riprendo Antonio. Ciao Giù, ci sentiamo alle prossime allora. Buon quaretti. Affermativo, buon proseguo di serata, ciao Giulio, ciao. E anche io sta come aspetto che rientri Barracuda, poi mandi saluti, dai. Sì, d'accordo, non c'è problema. C'era anche Luca. Sparito Luca, ci sei. No, sono qua, facciamo la cosettina, sono qua, sto ascoltando. Ah, positivo. Ciao va bene. Ciao Bobby. Sono tutto gonfio, che parecchie. Oh, salutatemelo. Mi ero fermato perché ho sentito a lui 10 minuti e poi c'è per mezz'ora. Va bene, saluto nel grande a Luca e a Pomponio e fatemi la ponte per lì a Baracco. Ok, buon proseguo, buon questo, ci sentiamo alle prossime. Via, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime, stavi bene, buon curiti, buon tutto. Ciao Gianni, a Brucia, ciao. Fatti sentire più spesso. Ciao qua noi. Va benissimo, salutone al grande a tutti, dai, ciao, fatemi bene, ciao ciao. Ciao. Hola, ci siete? Popo! Dai. Sì. Come vivi? La fa culo a me. E anche. Cosa fai così? No, va. Pompo, Giulio! Tanto mi hanno chiuso. Gianni di Chiaramonti ha detto di salutarci. Ci sentiamo, io non posso continuare, qua c'è la televisione accesa, capito? Pompugno comunque gli ci stava aspettando lì. Ci sentiamo, ciao a voi. Ciao, giù, alle prossime.